Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato nel vaso un partigiano, portavi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portavi via, che mi sento di morire. passato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.